E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Questa casa non è un albergo di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci come vuoi. Ben trovati ad un nuovo appuntamento con Questa casa non è un albergo. In regia, la parte tecnica, abbiamo il bel Fabio Cantadori, in assistenza Sara Spreafico e Giorgio De Luca. Qui davanti a me Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. E abbiamo anche un ospite, devo dire, a 5 stelle, è il professor Luca Bernardo. Buongiorno professore. Grazie a voi e buongiorno. La sua qualifica è parecchio lunga, ma la leggo tutta ad un fiato. È pediatra, direttore del Dipartimento Materno-Infantile Fate Bene Fratelle Macedonio Melloni e responsabile del primo ambulatorio pubblico sul bullismo. Credo che sia un caso unico in tutta Italia. Purtroppo per il momento è così. Bene, speriamo che altri lo seguano. Bullismo, perché oggi, come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, parliamo di questo, bullismo molto frequente nelle scuole. E allora, i vostri figli, che cosa dite ai vostri figli? Come reagiscono? Avete dei casi da raccontarci? Alberto? Sì, credo che una domanda anche per i nostri genitori sia questa. Cioè, si è parlato negli ultimi 2-3 anni di emergenza bullismo e io... ragionando, discutendo con molti genitori, mi sento dire tante volte quante storie, cioè solo i giornali che ora ne parlano di più, c'è sempre stato, in fin dei conti è normale nella vita di un adolescente. Voi come la pensate? Cioè credete che in questo momento ci siano davvero più casi? Allora provate a aiutarci a capire perché così tanti casi di bullismo e di violenza tra bambini e ragazzi, oppure secondo voi continuate a pensare che è un po' una montatura dei media, si vede di più, se ne parla di più, ma fondamentalmente c'è sempre stato. Professor Bernardo, vorrei una sua lettura spot del fenomeno, perché naturalmente poi approfondiremo insieme all'aiuto dei nostri ascoltatori, che ricordo possono chiamarci all'800 24 0024. Professore. Beh, io credo che il bullismo come fenomeno c'è sicuramente sempre stato e oggi è alle cronache, oggi c'è lo scoop e quindi più facilmente si è reso visibile questo fenomeno. Quello che è cambiato sono i termini di aggressività e soprattutto sono cambiati i nostri ragazzi, nel senso che oggi sicuramente sono molto più soli, le famiglie, non ovviamente tutte, sono molto più distanti a questi ragazzi, tant'è che spesso ci raccontano, noi arriviamo in casa e ci dobbiamo autogestire, ci dobbiamo fare domande ma anche darle risposte. Allora, per scaldare un po' la nostra discussione, il nostro dibattito, vi facciamo ascoltare tre brevi estratti da tre mail le ascoltiamo, ma chiedo Alberto poi di puntualizzare, no, da ciascuna di queste mail i messaggi che mandano, perché sono tre mail che ci aiutano a sottolineare l'ampiezza del fenomeno ma anche le diverse sfumature che lo connotano. Adesso le ascoltiamo e poi ci ragioniamo insieme. Ho 17 anni, io non sono vittima di bullismo, ma il mio compagno Gabriele, secondo me, lo è in pieno. Lui ha ufficialmente dichiarato di essere omosessuale e da quel momento è la vittima designata di 4 ragazzi della nostra scuola, che gli scrivono un sacco di brutte parole sul banco, gli mandano sms cretini e parlano di lui alle spalle. Gabriele è diventato silenzioso, non parla quasi più con nessuno. Vi ho ascoltato sabato scorso e mi avete fatto venire in mente la mia adolescenza, il periodo più buio della mia vita. Sono stata vittima di bullismo al femminile. Poiché avevo l'apparecchio ai denti e uno spesso paio di occhiali, questo è bastato per essere presa in giro sistematicamente dai compagni maschi e esclusa dal giro delle ragazze che contavano. È stato difficile diventare grande. Ora sono una mamma felice e una professionista di successo. Una foto in particolare mi ha colpito in questi ultimi giorni. Sfogliavo una rivista letta da mio figlio, 15enne, e sono rimasto senza parole nel constatare che un'azienda si fa pubblicità con 2 intere pagine su cui troneggia la figura di Fabrizio Corona come testimonial. Insomma, mi sembra impossibile che qualcuno paghi un personaggio così per far comprare il proprio prodotto. Sentivo la vostra trasmissione e mi sono detto: se questi sono i modelli che vengono proposti ai nostri figli, perché stupirsi della diffusione del bullismo? Alberto, allora, tre storie diverse che inquadrano un fenomeno comune, il bullismo. Sì, proprio settimana scorsa, chiudendo la puntata, anche tu avevi detto c'è forse un incrocio tra omofobia e bullismo, e direi che la prima mail lancia proprio un po' questa idea. Per un ragazzo che ha un orientamento omosessuale, sopravvivere nella sua scuola, laddove non sia stata fatta un'opportuna adeguata educazione, tolleranza, convivenza, proprio accettazione, visione della diversità come risorsa, il rischio diventa molto alto, e ce lo dicono le statistiche. Questi ragazzi hanno un rischio suicidario molto più alto rispetto alla popolazione generale. La seconda mail, secondo me, è molto interessante perché racconta un po' le storie tipiche di bullismo al femminile. Mentre i ragazzi si danno tante botte, spesso le ragazze utilizzano questo modo di parlarsi alle spalle, escludere socialmente una compagna che diventa vittima sistematica di tutto il gruppo. La terza mail la rilancio anche come provocazione ai nostri ascoltatori. Cioè, io credo che nella nostra società abbiamo persone che fanno attività magari ai limiti della legge, di questo risponderanno di fronte alla legge, saranno chiamati a rispondere penalmente di quello che fanno. Ma la cosa incredibile è che questi personaggi a volte vengono proprio utilizzati poi nella comunità mediatica, nei programmi televisivi, e pagati per diventare testimonial, attori, protagonisti di reality show. Mi domando se questo non sia potenziare e dare valore proprio all'immagine sociale del bullo, del prepotente. Dico questo perché me ne assumo la responsabilità, considero la figura di Fabrizio Corona, al di là di quello di cui lui risponderà personalmente, un'immagine proprio di un uomo che è diventato successo attraverso un modo di essere davvero bullo, cioè davvero prepotente. Potente nella sua prepotenza. E mi dico, com'è possibile che un'azienda che vende poi a giovani uomini, adulti, giovani maschi, abbia avuto questa idea di pagare un personaggio così per diventare popolare? Abbiamo in linea con noi Franco da Roma. Buongiorno Franco. Sì, buongiorno, seguivo la trasmissione e avevo una domanda da porre al professore e sentire la vostra opinione. Cioè, si è detto che questi episodi sono sempre esistiti, e comunque se pensiamo perlomeno dalla nostra esperienza della pubertà eccetera, ci sono dei casi in cui noi abbiamo istigato, che ne so, a bisticciare o comunque a dare addosso a un compagno considerato un po' quello più fra virgolette sfigato eccetera eccetera. Questo accadeva, però lo rendeva ancora accettabile, come pure penso a delle esperienze, qui chiedo conforto al professore, ricordo di aver letto per esempio nella fase tra i 12 e i 13 anni, insomma la fase della pubertà, c'è una ancora non determinatezza dell'identità sessuale, c'erano dei giochi che si facevano, che, insomma, da giocare al dottore eccetera fra cuginetti eccetera, ma ancora tutto ciò era reso più accettabile. Cosa è cambiato nella società che oggi fa sì che giochi di questo tipo o istigazioni di questo tipo, certo non c'era la violenza fisica, però ricordo che c'era comunque un abbondante utilizzo di ironia, sarcasmo eccetera eccetera per discriminare a volte dei compagni e giocare in maniera crudele con loro. Ecco, chiedo se qualcosa forse è cambiato nella società che rende tutto ciò inaccettabile ed esecrabile dal punto di vista sociale. Grazie a lei Franco. Un parere di Alberto e poi diamo la parola al professor Bernardo. Ma userei proprio l'ultima parola che ha utilizzato il nostro ascoltatore, discriminare, nel momento in cui nel gruppo si promuovono strategie di discriminazione nei confronti di un compagno per qualsiasi motivo, ecco lì è fondamentale avere adulti che sanno osservare, intervenire e ridirezionare, cioè proprio fare un lavoro educativo rispetto ai giochi che un tempo erano accettati. Il gioco del dottore in realtà è un gioco di esplorazione che ha senso ed è normale tra bambini a 12-13 anni, quando in realtà i soggetti sono già entrati in pubertà, può essere un gioco esplorativo nel momento in cui tutti sono consenzienti. Le cose che ci colpiscono in questi giorni, anche rispetto al racconto dei giornali, è che dove c'è bullismo c'è qualcuno che costringe un altro contro la sua volontà a fare cose che poi si ritorcono in modo molto pesante sul suo equilibrio psicoemotivo e per cui diventano gravi fattori di rischio per la crescita. Professor Bernardo, che cosa vedete nel vostro ambulatorio? Una realtà molto simile a quella raccontata dai giornali? purtroppo sì, non vorremmo vederla, ma la vediamo e la vediamo con costanza. Purtroppo vediamo che sono saltate le regole, ma non solo quelle tra adolescenti e adulti, ma nella comunità degli adolescenti. Vediamo per esempio che i genitori che dovrebbero fare i genitori fanno gli amici dei figli, e questo non va bene. Ma vediamo anche come c'è un'aggressività spiccata di alcuni adolescenti, perché bisogna dire che anche ce ne sono tanti, e tanti ragazzi e tante ragazze che sono assolutamente... Cioè, dei ragazzi che studiano, che stanno attenti, che magari hanno anche quel motus incendiario, diciamo così, tra virgolette, qual è quello degli adolescenti. Però questi in realtà, e soprattutto i bulli, diciamo pure che sono dei moderni predatori, e da un'altra parte sono anche dei vigliacchi. Ricordo che il bullo, quando attacca, attacca in pubblico, non va a casa, perché a casa non lo vedrebbe nessuno, quindi per lui deve esserci un palcoscenico. E ricordo anche che oggi un nuovo fenomeno è il cyberbullismo, cioè il bullismo attraverso internet. E intanto di questo parlerà Maria Piera Ceci subito dopo. Questa casa non è un albergo, per cui sarà un tema ulteriormente sviluppato. Alberto, nella trasmissione di oggi noi vogliamo però aiutare i nostri amici da casa, i nostri genitori, ad accompagnare i figli che hanno una storia di bullismo che magari fanno fatica a raccontare, ma nello stesso tempo vogliamo anche cercare di capire come si possa trasformare dei ragazzi che magari stanno solo a guardare e renderli protagonisti, e quindi di dare voce a quei valori che sembra in questa società si stiano perdendo, ma secondo me ci sono, devono solamente essere un pochino più riaccesi. Andiamo ad Anna da Latina. Buongiorno, sono Anna da Latina e complimenti veramente per l'argomento che state affrontando. Io ho tre figli, 30, 20 e 10 anni, primi sì. Due maschi, la seconda femmina, a cui ho insegnato la tolleranza, quindi reagire in modo scomposto o comunque non adeguato. Io mi ritrovo adesso con la mia bimba di 10 anni a dirle, guarda bimba mia, se si dicono o fanno qualcosa di esagerato reagisci, perché altrimenti la bimba si è trovata in situazioni dove veniva a casa e mi diceva mamma, io ti ho obbedito, non ho reagito, ma loro hanno ripetuto il fatto di rompermi le scatole, certo. Il fatto di mettermi le mani addosso, quindi mi ritrovo anche a dover, all'inizio io ho cercato di mediare con l'insegnante, l'insegnante mi ha risposto, ma sono bambini, il che significa c'è tolleranza da parte dell'insegnante, ma questa tolleranza non è quella giusta, è il fatto di non occuparsene, dall'insegnante ad altre mamme, io ho cercato il dialogo, però mi ritrovo una figlia che mi dice, mamma, sì, cioè è stata presa come tra virgolette cretina, nel senso okay. Non reagisce, certo. Non fa nulla. Anna, quindi sei trovata Alberto a dire a dare due messaggi diversi ai figli più grandi e a cambiare completamente, no? Messaggio rispetto ad Anna che è più piccola e vive quindi delle situazioni assolutamente differenti. Allora direi ad Anna che intanto è molto importante dire ai figli che quando si trovano in situazioni di rischio, in situazioni in cui vengono minacciate, è proprio un loro diritto cercare di fermare, di ribellarsi, proprio di non rimanere passivi di fronte ad un aggressore. Il secondo aspetto però fondamentale è che, proprio come ha fatto sua figlia, gli adulti devono conoscere le storie in cui a rischio in cui si trovano coinvolti i figli, e i ragazzi tra pari non riescono a venirne fuori in molti casi da soli, hanno davvero bisogno dell'intervento, della complicità di genitori e insegnanti che insieme devono fare rete e devono proprio reinsegnare ad un gruppo in cui c'è molta violenza a usare non l'antagonismo ma la cooperazione. Professor Bernardo, che cosa fate nel vostro ambulatorio quando arriva una vittima di bullismo? Beh, innanzitutto arrivano spesso, forse prima, i genitori o i nonni a raccontarci che qualcosa è cambiato, qualcosa è successo. E poi arrivano i ragazzi o le ragazze, perché entrambi arrivano ai nostri ambulatori. La prima cosa è a loro cercare di capire cosa è successo, soprattutto fargli capire che ciò che gli è successo non è colpa loro, perché spesso si danno la colpa di non essere stati in grado di reagire. Infatti io applaudo la signora su due passaggi importanti che ha detto. Il primo è il dialogo, fondamentale a scuola per gli insegnanti, ma fondamentale a casa tra i genitori. Il dialogo è fondamentale perché bisogna parlare di tutto, anche di quello che è successo a scuola. E forse mancava un terzo soggetto. Lei dice, la mamma, io ho parlato con l'insegnante, forse mancava il terzo soggetto che qual è? La mamma del bullo o i genitori del bullo. Io credo che un'alleanza stretta tra di loro forse potrebbero arginare o comunque certamente prevenire altri casi. I ragazzi tornano a noi quando arrivano, sono particolarmente sofferenti, sono in uno stato d'animo particolare, sono molto chiusi, sono isolati. perché non sono riusciti, come diceva giustamente il collega prima, a capire quello che gli è successo e soprattutto non sono in grado da soli di superarlo. Il nostro senso, il nostro percorso è una ristrutturazione del coraggio, questa è la parte fondamentale, perché devono avere coraggio di reagire, devono rivalutare quello che gli è successo, ma in una situazione, un sistema di assoluta sicurezza. E in questo non può non esserci anche la scuola, non può non esserci anche la famiglia. Andiamo ad Alessio che ci chiama da Pescara. Alessio, benvenuto e buongiorno. Buongiorno, io sono molto perplesso su tutti questi ragionamenti che si fanno in continuazione, come sull'alcol, come su tante altre cose. Sì? E io ho la sensazione che in questa Italia bellissima la stiamo distruggendo, facendo, mettendo in risalto solo ed esclusivamente fattacci, ora quello, ora quell'altro, e non si parla mai di tutto ciò di buono che facciamo. Per cui secondo me si invita a comportarsi in quel modo. Io non lo so, io sono quasi analfabeta, però capisco che oggi c'è più bisogno di cercare le cause, ma non il problema, c'è sempre stato, ci sempre sarà. Io mi auguro che finisca domani mattina, ma non è così. Per cui il primo problema degli addetti ai lavori, dei luminari, di tutta questa gente che ci studiano sopra, sarebbe quello di cercare la causa per cui si arriva al bullismo, per cui si arriva all'alcol, per cui si arriva alla droga, e non pubblicizzare come si fa oggi, che so, stuprata quella ragazza a turno da 7 ragazze, drogata, eccetera. Per cui anche se qualcuno non aveva l'idea e sta in bilico, gli si dà l'idea. Questo è il problema. Abbiamo capito Alessio, quindi Alessio, quello che dice Alessio da una parte è molto importante, perché sono davvero tanti anche gli esperti che dicono c'è sempre un rischio emulazione nel momento in cui parliamo di qualche cosa che ha a che fare con gli adolescenti, e molti potrebbero essere lì e improvvisamente essere illuminati dall'idea, adesso lo faccio anch'io così entro nei media. Però Alessio, il secondo grave problema intorno al bullismo, intorno alla violenza sessuale, è che sono temi che sono sempre stati tenuti nel nascosti. Silenzio, e il silenzio è il maggior alleato dell'aggressore, del violentatore, del bullo. E è proprio fondamentale questo passaggio intermedio in cui la società impara a vedere un problema, perché le consentirà poi di costruire strategie per poterlo affrontare e risolvere. Impara a trovare il coraggio e le parole per raccontarlo. Professor Bernardo. Certo sì, beh, io ascoltatore l'ho ascoltato, scusate il doppio ascoltato, con attenzione. Sono d'accordo, io credo che un ruolo fondamentale è quello della comunicazione dei mass media nel presentare, però bisogna parlarne. Perché noi, e io sempre dico, gli adolescenti per lo più, e la maggior parte sicuramente, sono dei gran bravi ragazzi e delle gran brave ragazze, però ci sono dei fenomeni che ci dicono, e dobbiamo dirlo perché oggi beati li abbiamo, 750.000 adolescenti a rischio di abuso d'alcol, che i primi bicchieri si bevono a 11 anni e mezzo. Abbiamo i dati scientifici oggi della letteratura, quindi dati reali, validi, che dicono che l'utilizzare la cannabis, la cocaina, farà sì che questi ragazzi da grandi avranno una modalità di approccio intellettivo e intellettuale diverso rispetto a quelli che non hanno utilizzata. Quindi queste cose vanno dette, bisogna dirlo, bisogna dirle nei corretti modi. Però, come diceva giustamente precedentemente il collega, credo che il bullismo, come tanti altri fenomeni degli adolescenti, siano vissuti fino ad oggi perché nascosti. Ecco, non possono essere più taciuti. E soprattutto anche all'ascoltatore ci ricordava, sono sempre esistiti, sempre esisteranno, magari con la giusta prevenzione, con le giuste mosse e strategie, riusciamo a ridurlo e forse a cancellarlo. Ma si accompagna. Citrullo, un successo di Alberto Pellai, e devo dire veramente che si è rivelato uno strumento importante anche di prevenzione, proprio un aspetto che vogliamo trattare oggi a 360 gradi, prevenzione per evitare che i nostri figli diventino bulli o bulle. Hanno proprio due profili assolutamente diversi, mi diceva il professor Bernardo, ragazzi e ragazze, ma prevenzione anche per i ragazzi che bulli sono già, per evitare che diventino dei bulli anche da grandi, con degli insuccessi e un pericolo molto alto. Professor Bernardo. Sì, il bullo generalmente non è un ragazzo particolarmente intelligente, non è un ragazzo particolarmente spigliato, è sicuramente un ragazzo particolarmente aggressivo. Ovviamente di bulli ce ne sono tanti tipi, adesso senza entrare nel merito del singolo bullo. Certamente quello che deve sapere, oltre che secondo me è considerato, ripeto e ribadisco, un vigliacco, è certamente una persona che comunque non avrà successo, e comunque da grande probabilmente qualche bullo saranno quelli che in ufficio faranno anche mobbing. Questo è un altro dato importante. E ricordo che alcuni di questi, se continueranno a fare i bulli, prenderanno una strada molto ben precisa e delineata, che è quella della criminalità. Alberto, noi cerchiamo sempre di essere pratici e quindi di dare le regole, le istruzioni per l'uso. Che cosa dobbiamo sapere? Che cosa devono fare e sapere i genitori? Allora, i genitori devono fare molta attenzione ai propri figli, perché è fondamentale avere l'aiuto di mamma e papà se sei vittima di bullismo, ed in questo caso i genitori si devono proprio attivare. Direi che il primo passaggio è una conversazione molto franca e diretta, dopo aver raccolto la storia del proprio figlio, con gli insegnanti o coi referenti della scuola. Fare molta attenzione se si è genitori di un bullo, cioè ci viene raccontato che nostro figlio è stato responsabile, protagonista di episodi che hanno messo in difficoltà la classe, la scuola, eccetera. Non minimizzate, non proteggete, ma cercate l'alleanza degli adulti che ve lo hanno segnalato per aiutare vostro figlio a fare un salto di qualità. E se vi sentite raccontare dei figli storie a cui loro assistono quotidianamente come spettatori, rinforzate proprio le loro relazioni di gruppo, fateli diventare protagonisti nel gruppo dei pari di un'azione di proprio controrivolta nei confronti del bullo. Fate sì che il gruppo degli amici della vittima riesca a fermare l'azione del bullo. In questo senso abbiamo in linea padre Stefano Gorla, che... Buongiorno! Buongiorno! Che piacere, padre! Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Lui è il direttore del giornale per ragazzi più longevo, non lo chiamiamo più vecchio, più longevo e non d'Italia, d'Europa, Il Giornalino. Chissà quanti dei nostri ascoltatori sono cresciuti leggendolo, e in realtà hanno fatto un'operazione di totale restyling di questa rivista. È diventata davvero molto moderna, molto attuale, molto attenta alla qualità del fumetto, ma anche alla qualità dei contenuti. Un tema sociale come il bullismo può avere in un giornale per ragazzi uno strumento fondamentale per la prevenzione e per la lotta proprio anche nei confronti del bullo? Beh, intanto ancora buongiorno a tutti. Sicuramente sì, forse è una risposta un po' scontata, nel senso, il nostro giornale, appunto, che festeggia i suoi 85 anni, ha due punti di riferimento forte: il fumetto per ragazzi e il giornalismo per ragazzi. Siamo convinti che è buona cosa, comunque questo sappiamo fare, alla fin fine, fornire ai ragazzi degli strumenti per leggere la realtà, qualunque tipo di realtà, e senza particolari filtri. E anche sulla dimensione del bullismo, abbiamo un contatto molto diretto con i nostri lettori, scrivono, mandano mail, mandano gli sms, abbiamo avuto occasione di parlare di alcune cose, e la prima cosa che però ci preme mettere in luce, sia coi ragazzi sia col mondo più alto, che noi riteniamo che il bullismo non sia un problema dei ragazzi, sostanzialmente sia un problema del mondo degli adulti, sia un problema di modelli, di accompagnamento. Quando i ragazzi si trovano esposti anche a un mondo mediatico dove i giornalisti si insultano bellamente, prendono in giro il nome dell'altro, per esempio quelle cose che poi noi diciamo sono tipiche del bullo, le offese legate al genere, all'altezza o alla bruttezza, ecco, noi diciamo attenzione, è il mondo degli adulti che sta mettendo in difficoltà i ragazzi che poi cercano una loro modalità per esprimersi, per farsi anche sentire. E allora da questo punto di vista la possibilità di rileggere la realtà che gli sta intorno e offrire anche qualche modello di accompagnamento, la possibilità di confidarsi oltre che di confrontarsi, ci sembra assolutamente indispensabile. Io so che padre Gorla deve scappare, intanto lo ringrazio per essere stato con noi perché ha aggiunto veramente un tassello importante per la lettura di questo fenomeno. Grazie, buon giornalino padre Gorla, grazie. Abbiamo un poco tempo, ma andrei da Bruno che ci chiama dalla provincia di Arezzo. Buongiorno Bruno. Buongiorno signora. Buongiorno, grazie per aver chiamato, ci racconti. Grazie a voi. No, si tratta di questo, non so se sia bullismo. Io quando ero ragazzino, 13-14 anni, ero terrorizzato quando ritornavano un paio di persone, di giovani, ma di 4-5 anni più di me, perché magari ci stavamo seduti davanti a un bar ed era uno sfottò continuo. Ma io ero figlio di una vedova, ecco questo è preciso. Magari sì. Si guardavano bene da andare magari a sfottere il figlio di chi aveva la fortuna di avere un padre e una madre. E io questo lo dire, io quella cosa per certi versi mi ha segnato, perché poi il carattere è stato venuto fuori un carattere piuttosto reattivo il mio. E tanto che a un certo punto ho imboccato la strada politica, parlo di un piccolo centro. Quindi, ovviamente. Certo. Per altri versi, ripeto, voglio dire, Bruno, non sono cose da scherzarci, sì. Cioè non è Bruno, fine a se stesso, ti possono segnare una vita. Certo, Bruno, io devo salutarla e devo chiudere. Alberto, considerato l'interesse dei nostri ascoltatori, torneremo a trattare di bullismo, ringraziamo il professor Bernardo, voi continuate a scriverci, noi siamo qua, facciamo rete, insomma. Buona giornata da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.